che cosa accade? Che la mafia nel sud in qualche modo sta subendo, ha subito grandi colpi da parte della magistratura e delle forze dell'ordine, latitanti arrestati, collusi, condannati, ma tutto ciò porta a un trasferimento, a un'emigrazione della criminalità organizzata verso zone dove è più fertile a mettere radici, e così hanno fatto i mafiosi calabresi, campani, siciliani. Sono arrivati in territori dove c'era un'economia fertile, libera, pulita, e purtroppo l'invasione delle mafie le ha attaccate e con questo virus li sta danneggiando. Però mi accorgo pure di un altro fatto, che se a Lamezia Terme in Calabria denunciare il pizzo ha una difficoltà 100, cioè molto pericoloso, quello che può essere visto a Novara o a Busto Arsizio è molto più basso, a Varese, cioè non c'è lo stesso pericolo di denuncia che c'è a Lamezia. E allora ecco, l'imprenditore deve essere del nord, deve essere sensibilizzato a denunciare, perché sa che non c'è lo stesso pericolo che si patisce al sud. Però il problema è che non avviene questa denuncia. Allora cosa credo che possa unire e cosa credo che ancora questo muro di omertà non venga abbattuto? Il fatto che mafia e imprenditoria purtroppo al nord è legata dal lucro, dagli affari. E allora a questo punto bisogna capire l'imprenditore sano cosa vuole, quale scelta, quale strada vuole intraprendere. Appuntamento dunque il 22 e 23 giugno a Lamezia Terme per Trame, il festival dei libri sulle mafie. Intanto voi scriveteci le vostre storie a controluce@radio24.it. Buona giornata.